Siamo pronti a sfidare tutti quanti, Truce Clan, Argitan, c'è un fraga un cazzo nessuno, vaffanculo, stronzo. Ok, cazzo, questo per tutti questi finti rapper nella mia isola di merda. Andate vaffanculo, sputate vera merda da raccontare. Cazzo, io mi sono rotto il cazzo di vendere bustine e fare rime sotto un palazzo. Sti froci con due rime te li ammazzo, vorrebbero togliermi lo spazio di sputare ciò che dico e ciò che faccio. Invece molto tira avanti, mi gioca con la vita solo per i contanti. Diffida i tuoi agenti, quando lo braccano sta zitto e stringe i denti. Non vive bei momenti, insegna i suoi fratelli a stare attenti ai loro movimenti. Gli sbirri son come serpenti, stringono la loro presa. Non devi farti cogliere mai di sorpresa, ci devi stare attento quali sbirri arrivano in ogni momento. Questa è la strada, una gran figlia di puttana. Ti baciavo e si fotte la tua dama, spaccio merda al trucchio Osama. Ti pisci in testa brutto infame, ti prego sparisci dalle strade, perché qua c'è troppa fame. La vita se ne va puttana insieme a tutto il resto. Questi sono un incesto, tu giudica il mio testo senza sapere quanta rabbia e sangue ci ho già messo. Mi guardi male come fossi il primo stronzo che porta il successo. Fottiti brutto coglione, per le rime già il bastione, per il figo che papà ti compra il macchinone. Siete una banda di rincoglioniti, ecco perché in Sardegna sono davvero rari miti. Leggi i miei scritti, almeno ti impari qualcosa, per schifo tu e tutta la tua crew è penosa. Non parlo per invidia, ma per la mia città, vuoto su troppa sfiga per essere una star. Parli del mio quartiere senza esserci mai stato, io non ti ho mai incontrato eppure ci sono nato e ci sono cresciuto. Ho fatto scuola nelle strade di Mulino, cazzo non ti ho conosciuto, perché mi sta sul cazzo che uno stronzo mai visto rappresenti il mio posto, perciò ne non resta il tuo posto. Non giocare con il cane quando è in bocca all'osso, se non finisci sei piedi sottoterra dentro un pozzo. Sembri l'uomo del bosco, vai fuori dai coglioni, sembri il figlio di Berlusconi che può bruciare i soldi sotto i palazzoni. Stronzo, non fottere con la mia merda, questa qua è la grande guerra del nuovo motoretta. Arriva qua e ti spara cazzotti, altro che beretta. Qua non si gioca, qua non si gioca a farli scemi, non siamo tutti finti come demi. Cazzo, bastardi, che cazzo vi mettete a fare il rap quando di rap non ne sapete un cazzo, figli di puttana di merda. Venite a cercarmi sotto casa, vi dimostro come si fa il rap, come si vive sotto i palazzi, come si può vivere con le mani nude e come si può vivere in mezzo a mille scazzi, in mezzo a piene di infami. Voi non capite il nostro stress quando viviamo queste strade. Cazzo, non riesci a dormire nemmeno. Cazzo, veramente, gli occhi sempre aperti, sempre chiusi. Porca puttana, altro che chiusi, vaffanculo. Ok, traccia per voi, finti rapper di merda. Se avete qualcosa vera da sputare, continuate a cantare. Se no vai da Maurizio Costanzo, chiedimi di farti sfondare in qualche pezzettino di qualche programma di gente messa male. Vaffanculo, non entrare in queste strade, stronzi infame, la vita ricorda, se ne va puttane, se ne va puttane, se ne va puttane.